30, finalmente a casa. La signora Thornton venne a trovare la signora Hale la mattina seguente. Era molto peggiorata. Un cambiamento improvviso, lunghi, visibili passi verso la morte erano stati fatti durante la notte e la sua famiglia si allarmò per l'aspetto incavato e grigio che aveva preso il suo viso in quelle sole 12 ore di sofferenza. La signora Thornton, che non la vedeva da settimane, si addolcì di colpo. Era venuta perché glielo aveva chiesto suo figlio come un favore personale, ma veniva armata di tutti quei sentimenti di amarezza e orgoglio che appartenevano alla sua natura contro quella famiglia di cui Margaret faceva parte. Dubitava che la signora Hale fosse veramente malata, credeva che ogni bisogno espresso da quella signora non fosse altro che un capriccio passeggero, che l'avrebbe distolta dal corso prestabilito dei suoi impegni per la giornata. Disse al figlio che avrebbe voluto che non fossero mai venuti in quella città, che lui non le avesse mai conosciute, che le lingue inutili, come il latino e il greco, non fossero mai state inventate. Lui sopportò tutto questo quasi in silenzio, ma dopo che lei ebbe finito la sua invettiva contro le lingue morte, tornò tranquillamente a esprimere brevemente e con tono brusco e deciso il suo desiderio che facesse visita alla signora Hale, allora stabilita, come probabilmente era più comodo per la malata. La signora Thornton si piegò al desiderio del figlio del tutto controvoglia, amandolo ancora di più per la sua sensibilità e ingigantendo nella sua testa quell'idea di straordinaria bontà che gli attribuiva perché perseverava nel mantenere i contatti con gli Hale. Quella bontà del figlio che rasentava la debolezza, come secondo lei facevano tutte le virtù più delicate, la personale disistima per il signore e la signora Hale e il chiaro disprezzo per Margaret, furono i pensieri che assorbirono la signora Thornton finché non rimase terrorizzata davanti al nulla, all'ombra scura delle ali dell'angelo della morte. Giaceva lì la signora Hale, anch'essa una madre, una donna molto più giovane di lei, su quel letto dal quale non c'era alcun segno di speranza che si potesse alzare di nuovo. Per lei non vi era più alcuna differenza tra il giorno e la notte in quella stanza oscurata. Non aveva alcuna forza di agire, si muoveva a stento, suoni sussurrati e meticolosi silenzi si alternavano fievolmente e allo stesso tempo quella vita monotona sembrava quasi eccessiva. Quando la signora Thornton, energica e piena di vita, entrò, la signora Hale era distesa, immobile, anche se dall'espressione sul volto era evidente che l'aveva riconosciuta, ma per uno o due minuti rimase con gli occhi chiusi. Pesanti lacrime le bagnarono le ciglia prima che alzasse lo sguardo, dopodiché, tastando debolmente le coperte con la mano, per toccare le dita grandi e forti della signora Thornton, parlò quasi senza fiato. La signora Thornton, dall'alto della sua posizione eretta, si dovette chinare per ascoltare. «Margaret, voi avete una figlia. Mia sorella è in Italia. Mia figlia resterà senza una madre, in un luogo sconosciuto. Se muoio, vi prego!» Ai suoi occhi, che vagavano annebbiati, si fissarono sul volto della signora Thornton traboccanti di disperazione. Per un minuto lei mantenne quella sua rigidità, era austera, immobile, sì, ma la donna malata, se i suoi occhi non si fossero offuscati per le lacrime che lentamente si formavano, avrebbe potuto vedere una nube scura attraversarle i freddi lineamenti del volto. E non fu il pensiero di suo figlio o di Fanny, la figlia ancora in vita, a commuoverla alla fine, ma l'improvviso ricordo, suggeritole da qualcosa nell'arredamento della stanza, di una bambina morta ancora in fasce tanti anni prima, che come un improvviso raggio di sole sciolse lo strato di ghiaccio dietro il quale si nascondeva una donna capace di provare vero affetto. «Desiderate che sia un'amica per la signorina Hale?» disse la signora Thornton con voce misurata che non si intenerì insieme al suo cuore, ma fuoriuscì chiara e distinta. La signora Hale, con gli occhi ancora fissi sul volto della signora Thornton, strinse la mano posata sul copriletto sotto la sua. Non riusciva a parlare. La signora Thornton sospirò. «Sarò un'amica sincera se le circostanze lo richiederanno. Non un'amica tenera, questo non posso esserlo». Con lei stava per aggiungere, ma si impietosì alla vista di quel povero viso tormentato. Non è nella mia natura mostrare affetto, anche quando lo provo, né in genere mi offro per dare consigli. Tuttavia, poiché me lo chiedete, se questo può esservi di conforto, prometto che lo farò. Poi ci fu una pausa. La signora Thornton era troppo coscienziosa per fare promesse che non intendesse mantenere, e adempiere una promessa che significava essere gentile con Margaret, che mai aveva detestato, come in quel momento era difficile, quasi impossibile. Prometto, disse con una severità solenne, che, dopo tutto, ispirò alla donna morente una fiducia in qualche modo più stabile della vita stessa, vita fugace, che vacillante voli via. Prometto che per qualsiasi problema la signorina Hale, chiamatela Margaret, disse a fatica la signora Hale, venga a chiedermi aiuto, farò il possibile per aiutarla, come se fosse figlia mia, prometto. Anche? Che se mai la vedrò fare qualcosa che ritengo sbagliato. Oh, ma Margaret non fa mai nulla di sbagliato, non volontariamente, disse la signora Hale con tono di supplica. La signora Thornton continuò imperterrita da dove era rimasta, come se non avesse sentito. Se mai la vedrò fare qualcosa che ritengo sbagliato, un errore che non riguarda me o la mia famiglia, nel qual caso si suppone che potrei avere un motivo di interesse, glielo dirò con sincerità e franchezza, come vorrei fosse detto a mia figlia. Ci fu una lunga pausa. La signora Hale sentiva che a questa promessa mancava qualcosa e allo stesso tempo era già tanto. Vi erano delle riserve che lei non capiva, ma era debole, frastornata e stanca. La signora Thornton stava riesaminando tutti i possibili casi in cui si era impegnata ad agire. Provava un intenso piacere all'idea di dire a Margaret verità a lei sgradite, sotto forma di adempimento del dovere. La signora Hale iniziò a parlare. Vi sono grata. Che il Signore vi benedica. Non ci rivedremo mai più in questo mondo, ma le mie ultime parole sono di ringraziamento perché avrete promesso che sarete benevola con mia figlia. Non è benevolenza, asserì la signora Thornton sgarbatamente franca fino alla fine. Ma essendosi alleggerita la coscienza pronunciando queste parole, non le dispiacque che lei non le avesse udite. Strinse la mano molle e delicata della signora Hale, poi si alzò e trovò da sola l'uscita, senza incontrare anima viva. Mentre la signora Thornton era impegnata nel colloquio con la signora Hale, Margaret e Dixon stavano riflettendo insieme, consultandosi su come fare per mantenere il più assoluto riservo sull'arrivo di Frederick, tenendo tutti lontano da quella casa. Ormai una sua lettera sarebbe potuta arrivare da un giorno all'altro e lui l'avrebbe di sicuro seguita a ruota. Bisognava mandare Martha in vacanza. Dixon doveva fare una severa guardia alla porta d'ingresso, ammettendo esclusivamente i pochi ospiti che entravano in casa per andare nello studio del signor Hale al piano terra. La grave malattia della signora Hale era una buona scusa a tale proposito. Se avessero avuto bisogno di Mary Higgins per aiutare Dixon in cucina, questa avrebbe dovuto sentire e vedere Frederick il meno possibile e lui, se necessario, sarebbe stato per lei il signor Dickinson. Ma il suo carattere pigro e per niente curioso era la migliore garanzia di protezione. Decisero che Martha sarebbe dovuta partire il pomeriggio stesso per andare a trovare sua madre. Margaret avrebbe voluto mandarla via il giorno prima, perché immaginava che potesse essere considerato strano mandare una domestica in vacanza quando le condizioni della sua padrona richiedevano così tanta assistenza. Povera Margaret, per tutto il pomeriggio dovette recitare la parte della figlia di un antico romano, tirando fuori l'esigua forza che le restava e distribuendola al padre. Era speranza, non disperazione, quella che il signor Hale provava tra un attacco e l'altro della malattia di sua moglie. A ogni momento di tregua dalla sofferenza si rincuorava, pensando che fosse l'inizio della guarigione definitiva, e dunque ogni convulsione, ognuna sempre più violenta dell'ultima, era per lui una nuova sofferenza e una delusione ancora più grande. Quel pomeriggio era seduto in salotto, incapace di sopportare la solitudine del suo studio o di fare qualsiasi cosa, seppellì la testa tra le braccia che teneva incrociate sul tavolo. A Margaret doleva il cuore vederlo così, tuttavia, poiché lui non parlava, decise di trattenersi dal fare qualche tentativo per consolarlo. Martha era sparita, Dixon sedeva accanto alla signora Hale mentre questa dormiva, La casa era silenziosa e tranquilla e si fece buio, senza che nessuno si muovesse per procurarsi delle candele. Margaret era seduta vicino alla finestra e guardava fuori i lampioni e la strada, ma senza vedere nulla, attenta soltanto ai profondi sospiri di suo padre. Non voleva scendere di sotto a prendere le candele, per timore che in mancanza del freno della sua silenziosa presenza lui potesse cedere a un violento sfogo di emozione senza che lei fosse al suo fianco a consolarlo. Tuttavia stava giusto pensando che doveva andare a controllare il fuoco in cucina perché non c'era nessuno a occuparsene, quando sentì il suono smorzato del campanello della porta che qualcuno aveva tirato con una violenza tale che il tintinnio dei fili si sentì in tutta la casa, nonostante il suono in sé non fosse forte. Sobbalzò, passò davanti a suo padre, che non si era mosso allo scampanellio attenuato e debole, tornò indietro e lo baciò teneramente. E ciò nonostante lui non si mosse né si accorse del suo affettuoso abbraccio. Dopodiché scese al piano di sotto senza fare rumore, nel buio fino a raggiungere la porta. Dixon avrebbe messo su la catenella prima di aprirla, ma Margaret non pensò affatto alla paura, tanta era la sua agitazione. Un'alta figura maschile si stagliava tra lei e la strada illuminata. Stava guardando da un'altra parte, ma sentendo il rumore del chiavistello si voltò velocemente. «È questa la casa del signor Hale?» domandò una voce nitida, piena e delicata. Un fremito percorse Margaret da capo a piedi. All'inizio non rispose, un momento dopo disse, sospirando, «Frederick!» e protese entrambe le mani per afferrare le sue e lo tirò dentro. «Oh, Margaret!» disse, tenendola per le spalle e allontanandola un po' dopo che si erano baciati, come se anche in quell'oscurità riuscisse a vederne il viso e a leggere nella sua espressione una risposta più immediata di tante parole alla sua domanda. «Mia madre è viva?» «Sì, è viva, fratello carissimo, è grave, molto grave, ma è viva, è viva!» «Oh, ti ringrazio, Dio!» disse lui. «Papà è completamente distrutto da questo enorme dolore.» «Mi aspettavate, vero?» «No, non abbiamo ricevuto nessuna lettera.» «Ah, si vede che sono arrivato prima io, ma la mamma sapeva che sarei arrivato?» «Oh, lo sapevamo tutti che saresti venuto. Ma aspetta un attimo, entra qui. Dammi la mano, cos'è questo?» «Oh, la tua sacca da viaggio.» Dixon ha tirato le tende, ma questo è lo studio di papà. Ti mostro dov'è una poltrona così puoi riposarti qualche minuto. Io intanto vado a dirglielo.» A tentoni. Andò a prendere un accenditoio e i fiammiferi. Provò un'inaspettata timidezza quando la piccola e debole luce li illuminò. Riuscì a notare soltanto che il viso del fratello aveva una carnagione più scura del solito e colse l'occhiata furtiva di due occhi blu dall'insolita forma allungata, che iniziarono improvvisamente a brillare con la divertita consapevolezza per quel desiderio di esaminarsi a vicenda che entrambi avevano. Tuttavia, nonostante la totale sintonia in cui fratello e sorella per un istante si trovarono nei loro reciproci sguardi, non si scambiarono una parola, ma Margaret era sicura che suo fratello le sarebbe piaciuto come amico tanto quanto già lo amava come parente stretto. Aveva il cuore indescrivibilmente più leggero quando salì di sopra. In realtà il dolore non era diminuito, ma diventò meno opprimente per la presenza in casa di qualcuno che lo provava dalla sua stessa posizione, e lo scoraggiamento di suo padre non aveva più nessun potere di deprimerla ora. Era steso sul tavolo, inerme come sempre, ma lei conosceva la formula magica per destarlo. Per il grande senso di sollievo che provava, forse la usò con troppa violenza. «Papà!» disse, buttandogli amorevolmente le braccia intorno al collo, tirando verso di sé la sua testa stanca, con un gesto brusco ma gentile, fino a quando lui non si rilassò tra quelle braccia e poté guardarlo negli occhi, infondendo loro forza e sicurezza tramite i suoi. «Papà, indovina chi è qui?» Lui la guardò, lei vide l'idea giusta luccicare dentro la velata tristezza del suo sguardo e poi venire allontanata come fosse pura immaginazione. Si lasciò cadere in avanti e di nuovo nascose la testa tra le braccia allungate, appoggiate sul tavolo, come prima. Lo sentì sussurrare qualcosa, si chinò dolcemente per ascoltare. «Non so, non dirmi che è Frederick, non Frederick, è troppo per me.» Si mise a piagnucolare come un bambino. «No, sono troppo stanco. E sua madre sta morendo». Era tutto così diverso da quello che Margaret aveva sperato e desiderato che si sentì male per la delusione e rimase per un attimo in silenzio. Poi ricominciò a parlare in modo differente, senza esultare, ma con più dolcezza e maggiore cautela. «Papà, è Frederick. Pensa alla mamma, quanto sarà felice e, oh, per il suo bene, a quanto dobbiamo essere contenti noi e anche per il bene di Frederick, povero, povero ragazzo!» Senza cambiare posizione, il padre sembrò sforzarsi di capire come stavano le cose. «Lui, dov'è?» chiese alla fine, con la faccia ancora nascosta tra le braccia allungate. «Nel tuo studio, tutto solo! Ho acceso la candela e sono corsa su a dirtelo! È tutto solo e si starà chiedendo per quale ragione!» «Andrò da lui!» la interruppe il padre. Quindi si alzò e si appoggiò al suo braccio come se fosse per lui una guida. Margaret lo accompagnò fino alla porta dello studio, ma era in un tale stato di agitazione che sentì che non avrebbe potuto reggere la vista dell'incontro. Si voltò e corse di sopra piangendo senza freni. Era la prima volta dopo giorni che osava concedersi questo sfogo. La tensione era stata terribile e in quel momento lo sentiva. Ma Frederick era arrivato. Lui, l'unico caro fratello, era lì, al sicuro, di nuovo tra loro. Stentava a crederci. Smise di piangere e aprì la porta della sua camera da letto. Non sentì nessuna voce, quasi temette di aver magari sognato. Scese di sotto e si mise ad ascoltare sulla porta dello studio. Sentì il brusio delle voci e questo bastò. Andò in cucina e attizzò il fuoco, accese le candele in tutta la casa e preparò qualcosa da mangiare per il vagabondo. Per fortuna sua madre dormiva. Sapeva che era così da quando, nell'impulso di accendere le candele, aveva sbirciato dal buco della serratura della porta della sua stanza. Il viaggiatore si sarebbe potuto rinfrescare e riposare e le prime emozioni dovute all'incontro con il padre sarebbero state superate prima che sua madre si accorgesse che c'era qualcosa di insolito. Quando tutto fu pronto, Margaret aprì la porta dello studio ed entrò come una cameriera, portando un pesante vassoio. Era fiera di servire Frederick, ma lui, vedendola, balzò subito in piedi e la sollevò da quel peso. Era un esempio, un segno di tutti i futuri sollievi che la sua presenza avrebbe portato. Fratello e sorella apparecchiarono il tavolo insieme, parlando poco, ma le loro mani si toccavano e i loro occhi parlavano l'innato linguaggio delle espressioni, così comprensibile tra quelli che hanno lo stesso sangue. Il fuoco si era spento e Margaret si impegnò per accenderlo, poiché la sera stava iniziando a fare freddo e poi era opportuno fare in modo che i rumori fossero più distanti possibile dalla camera della signora Hale. «Dixon dice che ci vuole talento per accendere il fuoco. Non è un'arte che si può imparare.» «Poeta nascitur, non fit», mormorò il signor Hale, e Margaret fu lieta di sentire di nuovo una citazione, per quanto fosse detta senza alcun entusiasmo. «Cara vecchia Dixon, quanti baci ci daremo», disse Frederick. Era solita darmi un bacio e poi guardarmi bene in faccia per accertarsi che fossi la persona giusta, per poi baciarmi di nuovo. «Ma Margaret, che pasticciona che sei! Non ho mai visto manine così goffe e buone a nulla. Corri a lavartele, così potrai tagliare il pane, servirmelo con il burro e lascia stare il fuoco. Ci penserò io. Accendere il fuoco è uno dei miei talenti naturali.» Così Margaret uscì, poi rientrò avanti e indietro nella stanza, con un'allegra smania che non riusciva a soddisfare mettendosi seduta tranquilla. Più cose Frederick desiderava, più lei era contenta, e tutto questo lui lo capì istintivamente. Era una gioia rubata nella casa del lutto, il suo sapore era molto più gustoso poiché, nel profondo dei loro cuori, sapevano quale irreparabile dolore li attendeva. Nel bel mezzo di tutto questo, sentirono i passi di Dixon sulle scale. Il signor Hale trasalì dalla sua posizione apatica sulla grande poltrona dalla quale stava osservando i figli in modo sognante, come se stessero recitando qualche commediola felice, che era bella da vedere ma che era diversa dalla realtà e nella quale lui non aveva alcun ruolo. Si alzò, guardando verso la porta, mostrando un'ansia così insolita e improvvisa di nascondere Frederick alla vista di qualsiasi persona stesse per entrare, anche se si trattava della fedele Dixon, che il cuore di Margaret fu scosso da un fremito. Le ricordò che c'era un timore nuovo nelle loro vite. Si aggrappò al braccio di Frederick e lo strinse forte, mentre un aspro pensiero le fece contrarre la fronte e stringere i denti. Eppure sapevano che era soltanto il passo cadenzato di Dixon. La sentirono camminare lungo il corridoio, entrare in cucina. Margaret si alzò. Vado io a dirglielo, così sento come sta la mamma. La signora Hale era sveglia. All'inizio vaneggiava, ma dopo che le ebbero dato del tè si era rinvigorita, anche se era poco propensa a parlare. Era meglio lasciar passare la notte prima di informarla dell'arrivo di suo figlio. L'appuntamento con il dottor Donaldson avrebbe già causato abbastanza nervosismo per quella sera e lui avrebbe magari potuto dire loro come prepararla per la visita di Frederick. Era lì, era a casa, poteva essere mandato a chiamare in qualsiasi momento. Margaret non riusciva a stare seduta tranquilla. Fu un sollievo per lei aiutare Dixon in tutti i preparativi per il padroncino Frederick. Sembrava essere instancabile. Ogni occhiata a quella stanza in cui era seduto con il padre a conversare con lui, non sapeva di cosa, né le interessava saperlo, la faceva sentire sempre più forte. Il suo momento di parlare e ascoltare sarebbe arrivato alla fine. Lei ne era così certa che sentiva l'urgenza di non lasciarselo scappare. Lo guardava e il suo aspetto le piaceva. Aveva lineamenti delicati che non avevano più nulla di effeminato, grazie alla carnagione scura e alla viva intensità della sua espressione. Gli occhi erano generalmente allegri, per quanto a volte, insieme alla bocca, subissero una trasformazione improvvisa, dandole come l'impressione di celare una certa collera che quasi la spaventava. Ma questa espressione non durava che un istante e non aveva nulla di caparbio né di vendicativo. Si trattava piuttosto di quella momentanea efferatezza che appare sul volto degli uomini che provengono da paesi selvaggi o del sud, un'efferatezza che valorizza il fascino della dolcezza infantile, nella quale una simile espressione si disperde. Forse Margaret temeva la violenza della sua indole impulsiva, manifestata solo occasionalmente, ma non vi era nulla che la facesse diffidare o minimamente allontanare dal fratello ritrovato. Al contrario, il loro rapporto ebbe per lei qualcosa di magico sin dall'inizio. Dall'intensa sensazione di sollievo che provava in presenza di Frederick, capì quanta responsabilità aveva avuto sulle spalle. Lui comprendeva i genitori, il loro carattere, le loro debolezze e andava avanti libero e spensierato, stando allo stesso tempo educatamente attento a non offendere o ferire i loro sentimenti. Sembrava sapere per istinto quando un po' della naturale vivacità dei suoi modi e delle sue chiacchiere avrebbero urtato la profonda tristezza del padre o avrebbe potuto alleviare un dolore della madre. Quando l'umore e il momento non erano opportuni, entrava invece in gioco la sua paziente devozione e la sua vigilanza, che lo rendevano un lodevole infermiere. Inoltre, Margaret si commuoveva quasi fino alle lacrime per le allusioni che lui spesso faceva alla loro infanzia nella New Forest. Non l'aveva mai dimenticata, né aveva dimenticato Helston per tutto il tempo in cui aveva vagabondato tra paesi lontani e gente strana. Margaret poteva raccontargli dei luoghi di un tempo senza avere mai paura di stancarlo. Aveva temuto il suo arrivo, pur desiderandolo ardentemente. A parer suo, 7 o 8 anni avevano prodotto in lei cambiamenti talmente enormi che, senza ricordare quanto fosse rimasto della Margaret di un tempo, era arrivata alla conclusione che se i suoi gusti e i suoi sentimenti erano cambiati in modo così radicale, sebbene fosse rimasta a casa, l'eccezionale carriera del fratello, di cui lei era poco informata, doveva averlo quasi sostituito con un altro Frederick, considerato l'alto valore delle strisce sulla sua uniforme di aspirante sottotenente che ricordava di aver guardato con ammirata soggezione. Nonostante la distanza, erano cresciuti simili l'uno all'altra, non solo perché erano quasi coetanei, ma per tanti altri motivi, e fu così che durante questo doloroso periodo, il fardello di Margaret fu più leggero. Per lei non esisteva nessuno spiraglio di luce, oltre alla presenza di Frederick. Per alcune ore la madre si riprese alla vista del figlio. Stava seduta, tenendogli la mano, non la lasciava nemmeno mentre dormiva, e Margaret doveva imboccarlo come un bambino per far sì che lui non disturbasse la madre spostando un solo dito. La signora Hale si svegliò mentre erano in tal modo impegnati. Girò lentamente la testa dall'altra parte sul cuscino e sorrise ai suoi figli quando si accorse di quello che stavano facendo e del motivo per cui lo stessero facendo. «Sono egoista», disse, «ma non sarà ancora per molto». Frederick si chinò e le baciò la molle mano che imprigionava la sua.